Piacere. Allora, dunque, vediamo un po', un saluto a Carolina da Genova, un saluto a Demetrio che dice praticamente 24 ore filate che vi ascolto, grande mille, grazie mille Demetrio, noi è quasi 24 ore che siamo in radio, quindi un saluto anche a Ilaria da Firenze, un saluto alla grandissima Eli Purple Bat che dice in che dunque apro le scommesse su un in che condizioni Edo arriverà alle 6, un saluto a tutta la Rock Family, ma soprattutto la Ari, Fefo, Bonnie, che sono degli idioti. Bene, grazie Purple Bat, viva la famiglia, giustamente, rockfamily.it. Poi vediamo un po', dunque altri saluti a Marco, grande Marco, anche lui si sta godendo la serata, bene, fa molto piacere. Un saluto ancora a Tango 10, un saluto a Giorgia, dice caspita quanto siete intensi, sto preparando la documentazione per un cliente con voi nelle orecchie, ho i brividi dall'emozione. Grazie Giorgia, un saluto ad Antlon, un abbraccio anche a te, un saluto a Sole, un saluto al fan club di Claudia che dice di essere presente, poi un saluto anche a Pink Guns, ancora un saluto a Sandro. Bene, allora 335-100-77-77 se siete ancora all'ascolto, se avete ancora della forza. Questa è la Nottedo, dunque continuiamo con i miei dischi. Prima abbiamo sentito gli Stones, prima ancora i Kiss, che in realtà vi ho fatto ascoltare con un disco relativamente minore, però era appena uscito, io ero in un negozio di dischi, ho detto sa, fai sentire questi Kiss che non conosco ancora tanto bene. Non ci credo, non ci credo, vieni qua Davide. Allora Davide dei Ministri, voilà. È bastato dire, ma perché non fate un salto stasera, si suona, mamma mia, grandissimo, fantastici, grazie davvero, che bella sorpresa, grazie, allora dopo ci prepariamo e facciamo qualcosa, benissimo, ok, sono arrivati i ministri così, a sorpresa, è ovviamente un piacere. Allora vi faccio ascoltare invece un altro disco importante della discografia personale, della collezione privata del DJ Edo. Trattasi di Stairway to Heaven, Highway to Hell, questa compilation che uscì in occasione di quello che fu il festival Make a Different Foundation, organizzato dalla Make a Different Foundation, il Moscow Peace Festival, che venne fatto nel 88, credo di non sbagliare, nell'89, adesso non vorrei gettare date al vento, poi sono anche parecchio stanco, quindi scusate se canno qualcosa, all'interno del quale tutti coloro i quali hanno partecipato hanno poi inciso una versione di una grande cover, reinterpretandola a proprio piacimento. Claudio, c'è qualcosa che vuoi aggiungere a questa cosa? Che ti voglio bene. Oh, che bello, la DJ Claudia, bisogna farla sbronzare per farle dire delle belle cose, grazie, anch'io tantissimo. Ecco. Grazie. Bene, dicevo, quindi il disco si chiama appunto Highway to Hell, Stairway to Heaven, un gioco di parole. La canzone che vi faccio ascoltare, Claudia, ora puoi anche andare a fare in culo. La canzone che vi faccio ascoltare del grandissimo Ozzy è della sua versione di Purple Haze. Zach Wilde se la smenazza, se la suonazza. Senti che roba, vabbè. Ah no, tu non senti, sei senza cuffie. Allora, è venuto a trovarci Davide De Minisi, che in realtà è già venuto oggi pomeriggio a trovarci. Beh, direi di sì. E insomma, cioè, se le gemmate insieme a noi, come... Com'è che hai detto? Com'è che Rockefeller adesso... Hai detto... è abbastanza sbarello. Ah, sì, esatto, ho detto una roba prima. Del genere, no, che mi piaceva. Dovete sapere che i ministri sono venuti oggi pomeriggio cantando e suonandoci una canzone scritta apposta per la chiusura di Rock FM, giusto? Sanno Requiem, che si merita. Esatto. Però il problema è il titolo. L'abbiamo deciso allora? O... Requiem per Rock FM. Ok, va bene, perfetto. Allora andiamo a riascoltare la versione di oggi pomeriggio. Edo, io sto piangendo. non piangere, vai. Questi sono i ministri con Requiem per Rock FM. Ok. Devo andare a cercare, me l'han tolta dalla vista, mi ci han fatto litigare. E chi tutte le cose se le deve andare a cercare, si deve coprire bene se ha intenzione di urlare. E c'è chi di mestiere deve semplificare, gli bastano due radio per cantare con suo mare. Su una c'è la merda, sull'altra merda per guidare, finché non avrete più la forza per cercare. Andavo in tangenziale perché maturavo in coda il diritto di gridare. E chi chiude una radio si deve vergognare, dovrebbe farsi qualche anno di coda in tangenziale. Dovrebbe farsi qualche anno di coda in tangenziale. Dovrebbe farsi qualche anno di coda in tangenziale. Eccoli qua. Allora, dunque, i grandissimi ministri che ci hanno fatto sentire, che ci hanno dedicato questa canzone. Allora, grazie ancora, Davide. Madonna, io sono emozionatissimo. Sì, mamma mia. No, che dicevi che tu hai conosciuto Rock FM quando eri in tenera età, quando eri giovane. Con quando Nicola, vedi tu. Nicola con NDDJ. Ed eccoci qua. Sono Nicola, sono qui per voi. Tra l'altro, se qualcuno, al di là di questa pessima imitazione della Claudia, se qualcuno ha visto Nicola, per cortesia, mandatecelo, perché stiamo cercando di contattarlo. Manca solo lui. Sì, manca solo lui per la 24 ore finale, non riusciamo a trovarlo, e ovviamente ci farebbe piacere averlo nella super 24 ore. Una cosa che devo dire, io vai. Ho visto Claudia per la prima volta, è stata oggi? Una voce che sì, ma porca mi ha accompagnato per anni e anni. Proprio sul fine io la conosco. Va bene, caramba, che sorpresa. Maro, è una garanzia. Allora, dunque, dai ministri passiamo in realtà a un'altra band di amici nostri. Adesso rinterpelliamo il Borchia. Oh, ciao, sono qui. Ehi, Borchia. I allora, perché online. tu in realtà, visto e che voi. Siamo in questo momento di promozione, sì. Eccetera. Tra l'altro, Aldo, potresti darmi il CD tuo, che passiamo un pezzo. Allora, il mio CD l'ho messo esattamente di dietro di te ed è in triplice copia. Firmata. Perfetto. Allora, nel frattempo. Esatto, grazie mille. Perché Aldo, oltre a cantarsela negli Acampora, se la canta anche nei Ricochet, sto offrendo il CD. Sentite ora, il CD che si scarta, la freschezza. Senti, ma c'è questa produzione del preziosissimo Borchia, dei nostri amici Pezzi di Ricambio, ne vuoi parlare tu? Ne voglio parlare, sono... Ne voglio parlare, ne posso parlare. Oh, yes, thanks, man. Sono un gruppo punk rock volterrano, il nostro comune amico Tombolo, il bassista dei Pezzi di Ricambio. Sono stati prodotti da Borchia, cioè da me. Una produzione a cui tengo molto, questi ragazzi. Cazzo, il Borchia produttore però cambia un po', come il Borchia, sì, si sente come sono diplomatico. Questi cazzi, oh. Questa è una produzione Borchia. Cioè, sembri Marco Bio. Diciamo che il pezzo si intitola La danza delle streghe, dove c'è anche ospite Tongio, tra l'altro, del Maniscalco Maldestro, a cantare. Mario Biondi, volevo dire. Sì, certo. Ti piace la mia voce discografica? Porca miseria, molto mi fai bella. Spavento, cara. Well, the sea, the number of the beast. Ok, andiamo a sentire. Vai. Il ricambio. Che se partissero come prima. Vieni, vieni con me. Danzerai, questa è la prova d'accesso. Festa non finisce mai. Segui il mio passo. Fino alla fine danzerai. Questa è la prova d'accesso. Festa non finisce mai. Alle promotional moment, questi erano i pezzi di ricambio direttamente da Volterra. Ovviamente un saluto, un abbraccio alla band. E a proposito di momenti promozionali, abbiamo qua Aldo che, come detto, oltre a essere cantante degli Acamporas, ma Crazy Cooter, adesso vediamo come, accidenti, in quale nome finiremo per chiamarci, milita in realtà da parecchio tempo all'interno di una band nomata Ricochet, nome a caso, vagamente ispirato agli Iron Maiden, giusto? Va con me, vagamente, anche qualcosa dei primi Suffocation. Ah, ok, perfetto. Senti Aldo, questa è in realtà non è il vostro primo prodotto, giusto? No, diciamo che è un prodotto più serio rispetto a quello che abbiamo prodotto prima, nel senso che questo è stato prodotto con sempre mezzi nostri, ma in uno studio vero, in uno studio che tra l'altro il nostro chitarrista gestisce a Genova, Lorenzo, e adesso con questa iniziativa qua, tra l'altro, dopo aver preso questo studio, inviteremo alcuni gruppi della scena genovese per registrare una compilation completamente gratuita da distribuire in giro, giusto per fare un po' viaggiare i gruppi che noi riteniamo siano giusti. Infatti anche con gli Acamporas si potrebbe fare qualcosina. Siamo qua Acamporas oppure Crazy Cooter, Crazy Cooter o Rasmeyer, esatto. Va bene, vedremo. Senti, andiamo a sentire allora una canzone da questo disco, si chiama High Heels Tragedy. Esatto. Sì, di che parla? Niente, parla di una donna che pensa solo a se stessa, ha la sua immagine, ha il suo futuro con il conto in banca, con il suo omino con il conto in banca. E ogni passo che fa con i suoi tacchi alti uccide piano piano la terra. We'll be right back. Allora, questi erano gli LA Guns con Slap in the Face, canzone che apriva probabilmente quello che è stato il loro disco principale, ossia Cocked and Loaded, quello che gli ha permesso, insomma, di essere, di diventare famosi da un certo punto di vista. Dunque, altro disco pazzesco, infatti avete sentito che da un certo punto, cioè, saltava un attimo, quindi. Anche meno, vedi. Allora, stiamo un attimo preparandoci, non abbiamo fatto tanto, Chi è che ha acceso sta roba? Allora, intanto ci stiamo preparando. E, è tutta colpa del Borchia. Ci stiamo preparando. Porca, togli sto delay che hai attaccato, no, per cortesia. Cos'è sta roba? Basta così. Ah, ok. Ok, perfetto, ci risiamo. Allora, anche questa è Rock FM. Anche questa è Rock FM, esatto. Allora, dunque, ci stiamo piano piano risistemandoci, ancora un paio di jam da fare. Ce ne saranno un po', in realtà cosa facciamo? Chiudiamo alle 4? Sì, chiudiamo quando ci pare. Ah, possiamo anche chiudere un po' dopo volendo. Certo. Esatto. Vai, guarda, io. Numa? Problemi? Per giorno devo rientrare nella bara, ma. Va bene, ok, d'accordo. D'accordo, vai. 1, 2, 3, 4! Bravo. Ale! Ripartiamo. Dai. Edo, l'hai sbagliato anche l'ultima volta. Numa. Numa, un altro pezzo. Esatto. 1, 2, 3, 4! Yeah. Il Borca è rimasto male.